suo sguardo emette candide emozioni e le sue labbra specchi di un'altra realtà. Con passo lieve annienta ogni tua paura ed è il ritratto di giustizia ed umiltà. Lei, vittima sacrificale, lei. Soffre per ogni tua frustrazione.